Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. A me piace viaggiare in treno. Io viaggio soprattutto in treno. Mi piace partire dal cuore di una città e arrivare al cuore di un'altra città. Non mi piacciono i non luoghi, i luoghi incerti, i luoghi di transito. Sì, le stazioni si dirà che sono luoghi di transito, ma le stazioni sono infarcite della stessa umanità che poi sale sui treni. È un po' come se fossero le stesse persone, anzi è un po' come se fosse un pezzo del nostro paese che è in continua transumanza. In Italia ci sono 20 regioni. Chi viaggia in treno fa parte della popolazione della 21esima regione. È una regione dai confini fluidi, dai confini incerti, dai confini continuamente fluttuanti. È la regione dei viaggiatori in treno. Mentre aspetto chi mi aspetta, guardo le persone sedute e mi piace immaginare quali siano le persone che loro aspettano alla fine del loro viaggio. Questa ragazza smanetta sul suo smartphone, cerca i fili sottili, forse interrotti, forse robustissimi, di un suo amore o di un suo ex amore o di un amore che verrà. Li cerca attraverso WhatsApp, attraverso Facebook, attraverso Twitter, o cerca di lasciare lei stessa delle tracce di un suo passaggio, sperando che qualcuno segua queste tracce. Quindi eri in analisi te? Io sì, ero in analisi da un po', sì. E col tuo psicanalista era un rapporto professionale? Certo. Soltanto? Sì, soltanto, ma io ero in analisi da poco. E quindi, niente, lui era da un sacco di tempo che voleva parlare con me e non riuscivamo a parlare, insomma, sai, quelle stronzate che si dicono, no? Non riesco più a parlare con te, eccetera. E ha detto vengo anch'io. Vengo anch'io. No, in realtà lui voleva venire perché noi non riuscivamo più a parlare fra di noi. E quindi dice, vabbè, ok, magari possiamo parlarne davanti allo psicanalista, magari ci dà una mano, boh, che ne so. Era un'intenzione seria? Sembrava, sì. Sì, sì, sembrava. Fra voi c'era un problema ormai arrivato agli sgoccioli. Sì, eravamo cotti. E quindi niente. E non avevi il coraggio di mollare? Io non lo volevo mollare veramente, volevo provare a far tutto per tutto, per salvare sta storia, non so neanche io perché obiettivamente. E quindi dico, vabbò, ok, ci sto. E contavi sullo psicanalista per salvare una storia finita? Ma io non pensavo fosse finita, me ne sono accorta quando lui mi ha portato la busta con tutte le mie cose davanti allo psicanalista. Ma com'è questo? Eh sì, tipo, ci diamo appuntamento dallo psicanalista. Quindi accetti di portartelo? Sì, accetto di portarmelo. E lui si presenta con una busta di plastica enorme e con dentro tante buste. E in ogni busta c'erano, ogni busta corrispondeva a una stanza della sua casa. Dove andavate voi? Sì, dove abitavamo insieme, esatto. E in ogni busta c'erano le mie cose di quella stanza. Quindi tipo in una busta c'erano le pantofole, il pigiama, lo spazzo e basta per dire. In un'altra c'era lo spazzolino, il dentifricio, lo struccante. E in un'altra ancora le pentole sporche della perché sera sporche? Prima. Perché erano ancora sporche di quando ci avevo cucinato. Oh. E lo spremiagrumi sporco d'arancia. Ma quindi il matto era lui? Mi sa di sì. E com'è finita? Cosa ha detto il medico? E il medico ha detto che forse si era sbagliato perché aveva confuso il notaio con lo psichiatra. E quindi lui aveva notificato davanti a lui la fine del nostro rapporto così, consegnandomi le buste. Ah, quindi ti ha messo alla porta praticamente. Però davanti allo psichiatra, sì. Beh, voleva la testimonianza ufficiale che non è. Era lui che non ne poteva più di te. Ah, da quel dì penso, sì. E tu hai continuato poi ad andare dallo psicanalista per sanare la ferita dell'abbandono? Sì. Sì, e tra l'altro l'ho pagata pure io quella seduta. E lui non l'ha quindi più visto? Quindi mi è costato pure doppio. Dopo questa volta l'hai più visto? Sì, l'ho rincontrato per caso in metropolitana. Tipo sliding doors, le porte si chiudono, io dentro e lui fuori. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra qualche minuto. Lei è arrivata, per lei le porte si sono aperte, per me si sono richiuse e continuo il mio viaggio. Mi dispiace di essere stato duro, mi dispiace di essere stato spietato, ma quando ci si trova di fronte all'ineluttabile segnale di un amore che è finito, è meglio essere realisti. E intanto io aspetto chi forse mi aspetta. Non ho mai saputo esattamente quale sia la differenza fra un mezzo soprano e un soprano intero. È una mia profonda ignoranza, è una mia lacuna in campo musicale. Non ho mai capito nulla di musica. Venivo da una famiglia dove non si compravano dischi, quindi non ho mai ascoltato musica in tutti gli anni 60-70 in cui normalmente un ragazzo si costruisce la propria cultura musicale. Per me la sorpresa di avere vicino un mezzo soprano non può trattenermi da domandarle di cantare qualcosa. È una cosa burina, chiattissima, una cosa infelicissima. Mi sa tanto di festa di matrimonio, dove c'è quello che si dice cantaci qualcosa. E lui prima si fa pregare, e poi si fa ripregare, e poi ancora si fa ripregare, e poi alla fine con quel fare dire vabbè, scusate, mi devo solo schiarire la voce, verrà qualcosa sicuramente di brutto, comincia a farsi ascoltare. La prego, mezzo soprano, mi canti qualcosa per me. La prego. Aspetti un attimo. No, sì, perché... senta poi, ok. Poi la prego, qualcosa. Velocemente. Ancora. Ma almeno un'area completa, no? Così no, guardi, l'area una completa ho bisogno di fare mezz'oretta di vocalizzi. Ma no, senza vocalizzi. La prego. No. Allugola già abbastanza. Vabbè, canti di spalle, va, così non si vede. Ecco, di spalle. No, non la prego. La prego. Se non faccio i vocalizzi non riesco a cantare. Ma non è vero, scusi, eh. En attendant la fin de la fin du monde, tu voudrais croire que l'histoire se terminera bien. Et pourtant, à des kilomètres à la ronde, dans le trou noir, y'a rien à voir, ça va, ça vient. Et c'est peut-être ta dernière chance, tu t'y fais la force d'y penser. Et c'est sûrement perdu d'avance. Il treno va. Viaggiare in treno mi piace perché viaggiando in treno ci si rende conto che in Italia non ci sono soltanto le città e se ne rende conto soprattutto un metropolitano avvelenato come me che è nato e vissuto in campagna fino più o meno a 20 anni della sua vita. Il treno passa attraverso i campi coltivati, ancora qualcuno coltiva la terra, si vedono campi arati, si vedono campi mietuti, si vede del grano appena raccolto, si vedono i fasci di paglia abbandonati sui campi, e si vedono i trattori che fendono la terra, si sente quasi, ma non si sente perché i finestrini del treno sono ermetici, il treno corre velocissimo, però sembra di sentire quell'odore di terra quando piove, com'è la terra appena arata, appena piovuto, che è una sorta di estasi mai provata se non quando ero bambino in campagna. Si vedono anche gli animali. Improvvisamente ci si accorge che lungo le tratte dei treni ci sono dei greggi di pecore, ci sono mandri di mucche, che non avrebbe mai pensato di vedere così allo stato libero. Uno le mucche se le immagina tutte come sono lì belle, confezionate, dentro i pacchetti incellofanati del supermercato, fatte a pezzi, in bistecche, filetti, controfiletti, oppure in vari tagli. Invece no, ci sono ancora le mucche intere che pascolano, placide, e solo attraverso il treno si possono vedere. A me la mucca ricorda qualcosa di molto tenero, di molto lontano, di molto integralmente, visceralmente legato alla mia infanzia. Ricorda la prima mucca della mia vita, che è stato anche il mio primo grande amore, la mucca Carolina. Nessuno potrà capirmi se da piccolo non ha mai subito il fascino della mucca Carolina, la pupazza gonfiabile per bambini dalle belle tettone rosa. Era una mucchetta di plastica che arrivava a casa in scatola e si poteva gonfiare a bocca. Dipinta a fiorami come la tappezzeria di un divano, si poteva avere con i punti del formaggino Milione della Invernizzi, quello a triangolo, con la confezione del bambino che si leccava le dita. Il formaggino era tutto per noi. Era la nostra fantastica droga. Con un bel po' di cartoncini del leccadita ti davano quella mucca Carolina. Non serviva a nulla in fondo. La portavi a casa, la gonfiavi e ne sniffavi quel buon odore di plastica tossica. Un odore indimenticabile. Fino a che si bucava e poi si ricominciava la raccolta. Per tornare a possederla ci si ingozzava ancora di formaggini e poi finalmente arrivava... Sì, regala la mucca Carolina! La mucca Carolina fu il gadget che segnò la fortuna economica del nostro paese, non soltanto il nostro giocattolo più caro. Dall'inizio degli anni 60, per 20 anni, alla Roxy Plastic di Cervarese Santa Croce nel Padovano si produssero intere mandre di mucche gonfiabili. Ne producevano 100.000 pezzi al giorno. In un capannone che oggi è stato demolito c'era la fabbrica del sogno bovino della nostra generazione. Ci operavano 300 persone, erano quasi tutte ragazze. Ho letto in una cronaca locale degli anni 60 che in ogni preliminare di approccio galante, in una balera della zona del Cervarese, quando veniva domandata una ragazza per rompere il ghiaccio, cosa fai, dove lavori? Diceva, io lavoro alla mucca Carolina. Poi pian piano, quando cominciò a declinare la fortuna di Carosello, e quindi della mucca Carolina, il prodotto cominciò la sua parabola discendente e i locali che erano stati destinati alla lavorazione della mucca Carolina cominciarono a costruire canottini, salvagente, strumenti di salvataggio e della mucca Carolina non rimase più nulla. Tolon, tolon, tolon, tolon, e-o. Mi sono accorto di quella donna perché telefonava con discrezione. Telefonare con discrezione significa tenere la mano come raccolta per non far vedere il moto della bocca e quasi per frenare quella che può essere l'irruzione della fragorosità del proprio smartphone nello scompartimento. Telefonava con molto pudore, telefonava sottovoce. Non so chi parlasse, immagino un figlio, qualcuno di famiglia. Era mestamente ma dignitosamente vestita. Sembrava donna d'altri tempi, ma in lei c'era una sorta di guizzo, di desiderio, di qualcosa che sembrava affondare le radici nella sua fanciullezza lontana. E immediatamente ho riconosciuto in lei qualcosa che mi apparteneva, che apparteneva alla mia stirpe. Era una donna che veniva comunque dalla terra. Era una donna che aveva conosciuto la campagna. E infatti, ragionando, ci siamo subito intesi, guardando le mucche pascolare fuori, come già spesso ci capita di vedere, cominciammo a raccontare i nostri reciproci passati agresti. E allora, mio padre, noi siamo 3 sorelle. Io... Abbiamo fatto un sorteggio perché avevamo avuto un tecnico che ha fatto le parti, le mie 2 sorelle hanno preso una casa ciascuno e io ho avuto la stalla. Ok, Cenerentola delle 3 sorelle. No. Insomma, sì, ma la stalla mi sembra di aver capito che per il resto della vita cosa ci fa lei con una stalla? Eh no, ci ho fatto 3 piccoli appartamenti in questi 20 anni. Ah, quindi ha investito nella stalla? Ho investito tutti i miei soldi, tutti i miei risparmi nella stalla di mio padre, perché lui era molto, voglio dire, economicamente molto molto ristretto, poteva fare questa stalla nel dopoguerra moderna, fu la prima stalla moderna a Rivisondoli, quindi le mucche bevevano da sole, tutte queste robe, però noi facevamo una vita un pochino micragnosa. Cioè ha tolto alle figlie quello che ha dato alle mucche? Beh, non alle mucche, lui amava molto fare il contadino, poteva fare altro, ma lui diceva, è la mia vita, mi piace molto. In paese lo chiamavano il veterinario perché sapeva tanto di mucche. Prima le mucche, poi le figlie. Era molto brava, sì, no, il problema è che noi eravamo 3 figlie femmine, quindi lui doveva, come si dice, sistemarci tutte e 3. 3 patate bollenti. Bravo, era proprio terrorizzato che non ci sposassimo, che insomma, e quindi una mia sorella a 18 anni e mezzo se n'è andata. Cioè, obbligata dal padre, come nei paesi musulmani. No, pensavo di aver fatto un buon matrimonio, in effetti l'ha fatto, però prestissimo, 18 anni e mezzo. L'altra mia sorella è andata via a 24 anni, io... Andata via che vuol dire? E si è sposata a 24, io invece... Però ha scelto lei? Sì, no, beh, insomma, come si sceglieva 60 anni fa. Cioè sceglieva il padre? No, beh, insomma, è venuto questo ragazzo, era un bravo ragazzo e via. E io invece a 19 anni sono venuta a Milano, ho fatto la valigia, come si suol dire. E lei chi l'ha presa? E io mi sono sposata con un mio amico che faceva un po' sindacalista con me, quindi... Quindi il padre almeno con lei non ha avuto possibilità di scelta. No. Però si è arrabbiato molto perché mi sono sposata che aspettavo mia figlia. E quando è nata, gli abbiamo detto, è nata chiara. E lui ha detto, ma come, non sei mica una pecora che fa i figli dopo 6 mesi e mezzo? Mio quindi padre... ha fatto anche il conto di quando avevate consumato? Ha detto questa si è sposata in febbraio, si è sposata in agosto, è nata la bimba in febbraio, ha contato i mesi, sapeva contare, era furbo, E allora quando è venuto qui a trovarmi io ero molto spaventata da mio padre. Tra l'altro avevamo fatto già, come si dice, le prime promesse in comune 4 mesi prima, quindi ci poteva pure stare, E però è andata così. Mi è andato via il latte quando è venuto. Dalla paura? Sì. Ma può un padre essere così prepotente nella vita delle figlie? No, non è prepotente, perché poi quando è arrivato ha preso in braccio mia figlia e non ha detto più niente. Cioè, come dire, tutta quella roba si è consumata nel momento in cui gli è stato detto. Sì, ma mi fa specie una cosa. Suo padre, che era così bravo e tecnico nel comperare le mungitrici per le mucche, mandava il latte alle figlie per terrorizzarle. Vabbè, insomma, eravamo, voglio dire... 40-47 anni fa, sono passati tanti anni. Bella, pezzata, con la groppa fiorita e le super mammelle rosa che sembravano vere. Al mio amico Marco, per punizione, i genitori sequestrarono la mucca Carolina chiudendola in uno sgabuzzino. Lui, già grande pilota di elicotteri, mi raccontò che aveva passato giorni e giorni con l'occhio nel buco della chiave per spiare la sua mucchina che inesorabilmente si andava sgonfiando come era nella sua caduca natura. Sapevamo che sarebbe durata poco. Non era un mistero per nessuno di noi il fatto che Carolina si bucasse quasi subito. Sapevamo quanto fosse scarsamente resistente agli assalti amorosi. Ma forse era frattura prestabilita per costringerci a mangiare altri formaggini. She can't sleep at night, still on the hunt for her four-leaf clover through her tunnel side. She seeks out the chances left over. Il treno va. Il treno è ripartito. Resto sempre in compagnia della signora abruzzese, la figlia dell'allevatore di mucche che aveva perso il latte perché il padre scoprì che lei si era congiunta con il suo marito prima ancora del matrimonio. E continua a raccontarmi le sue storie di famiglia, di una madre che non parlava, che taceva, di un padre che tutto poteva, di lei che scoprì l'amore. Si avvertono i signori passeggeri che alla carrozza 5 è attivo il servizio di ristorazione. Ma secondo lei invece è stata l'unica donna della vita del suo padre, sua madre? Questo non saprei dirlo. Non ci metterebbe perché... la mano sul fuoco? No, non la potrei mettere la mano sul fuoco, perché secondo me era anche un uomo a cui piaceva deliziarsi, insomma, in qualche modo, però... E ma chi si prendeva? Perché era tutto sott'occhio, tutto sottocchio, state sempre assieme. Però sa, magari un contadino doveva andare in una stalla di qualcuno a curare la mucca, e se c'era la donna... Curava anche la contadina, insomma. Però forse, no, non so, però, come dire, caratterialmente poteva anche starci qualche scappatella. Sì, perché io mi ricordo, anch'io vengo dalla campagna, gli adulteri dei contadini si svolgono nelle stalle. Lo so, infatti in paese si raccontano alcune di queste cose. Tipo? Che per esempio c'era una signora che aveva il marito all'estero e il suo vicino era un uomo che non era sposato e si è sempre detto che stavano insieme. Lei andava a mungere la mucca e mungeva anche lui. Non ho idea, perché insomma io sono andata via presto e ho sempre pensato che in realtà fosse tutto molto quieto, no? Quindi poi le cose, quando tu diventi grande e cominci a fare i tuoi ragionamenti, e allora dici, ma forse sì, ci poteva stare. Che papà magari potesse magari toccare il sedere a una donna, secondo me ci poteva stare. Lei l'ha mai visto farlo? No, assolutamente. Alle vendemmie, alle mietiture? No, mai. Ma lui era molto severo con se stesso ed era molto severo con noi. Ma sono i peggiori, sono quelli che poi hanno privato. Non, magari nella sua mente, però devo dire onestamente, lui è stato talmente severo che noi alla fine c'eravamo. Ma voi come aveva educato? Cioè, aveva raccontato mai delle cose della vita? Tutte. Lui ve l'ha detto proprio? Lui ha scritto anche, sì, lui anche aveva scritto un piccolo, un po' di fogli di memorie sue. No, nel senso, quando voi siete diventate da bambine e ragazze, sì. Chi l'ha insegnato come funzionava, visto che era così geloso? Nessuno. Facciano finta che nessuno aveva detto. Io, l'unica cosa che ricordo è questo, quando si è sposata la mia seconda sorella, e io allora avevo, credo, sui 16 anni, e forse 15, e io ricordo solo questa cosa, che la mattina che si è sposata, e quando era in camera che si è vestita per il matrimonio, a un certo punto eravamo tutti fuori, io sono entrata in camera e c'era la mia mamma che le stava parlando e lei piangeva. Ah, gli aveva spiegato cosa fanno, bravo, gli uomini e le donne. Bravo. E sua sorella non sapeva nulla? No, mia sorella era anche una donna molto mite. Ma molto, che anno era più o meno, per capire l'epoca? Allora, vediamo un po'. Mia sorella ha 74 anni, si è sposata a 24, quindi 50 anni fa. Vabbè, non era nemmeno tanto tempo fa. No, però... Anni però, 60? Sì, 65, così. Anni 70, esatto, sì, perché io sono venuta a Milano. Quindi una ragazza degli anni 70? Un pochino prima. Metà degli anni 60, 65. Sì. Nel 65 una ragazza abruzzese, sì, andava al matrimonio completamente inconsapevole di quello che accadesse. Sì, credo. Mia sorella era anche una ragazza molto timida, non aveva mai avuto fidanzati, quindi si sposava con questo ragazzo. E questo episodio mi lasciò... Io ho 9 anni meno di mia sorella, quindi ero un pochino più scafata. E come gliel'avrà detto? Come gliel'avrà detto? Fai quello che dice tuo marito, non ti ribellare? Credo di sì. Gli avrà detto, stasera succederà questo, credo. Mi aveva fatto impressione perché mia mamma non ci aveva mai parlato di niente, per esempio anche quando ci sono arrivate le mestruazioni. E che aveva detto? Come ve l'ha spiegato? Ah no, io ho fatto tutto da sola. Perché lei già sapeva cos'era? Beh sì, quello lo sapevo. E sua madre faceva finta di nulla, come se nulla fosse? Sì, purtroppo sì, non ci hanno insegnato niente. Beh, accadeva, di quei tempi era così. No, io sono diventata adulta e io ho perso la mia virginità a Milano. E beh, questo è logico, questo si capiva. No, ed ero grande, però avevo 20 anni. Allora, la prima volta che sono andata a letto con un uomo e lui ha avuto l'orgasmo, io mi sono spaventata, volevo chiamare un'ambulanza. Pensavo che stesse male. Sì, perché anch'io, nonostante fossi più sveglia, nonostante avessi studiato, nonostante questo qui avessi sentito anche tante cose, no? Però in realtà poi non conoscevo niente, avevo avuto qualche fidanzato con qualche bacio. Ma quando non c'era internet a quei tempi, uno delle cose no, se non gliele diceva nessuno. Non c'era niente, al massimo leggevi sul vocabolario delle cose. E... Però come sono cambiati i tempi? Mica stiamo parlando di una vita fa. Pazzesco. Hanno una tale libertà che a me scappa da ridere quando penso, pensate, io 40 anni fa, perché ne ho 65, no, un po' di meno insomma, quando sono andata a letto per la prima volta avevo 20 anni con un uomo 19 e mi è venuto un coccolone insomma, no, poi faccio ridere le mie amiche quando lo racconto. E cosa gli ha detto questo poverino? Stai male? Chiamo l'ambulanza. Io gli ho detto, ti senti male? E lui dice, no, ma è stato meglio in vita mia. più o meno insomma. Cambio scompartimento, c'è quasi una festa. Sono ragazzi e ragazze che probabilmente sono pendolari, studenti o semplicemente lavoratori precari, che stanno tutti attorno a una venditrice di spazzole o di oggetti simili, non capisco bene. Sono degli strumenti per massaggiarsi, sono degli strumenti che hanno probabilmente una funzione estetica o rigenerativa. Certo è che la malizia porta a pensare che ad altre funzioni siano destinati. È un massaggiatore a vibrazione. Ma questo batte forte però. Proviamo l'altro. Ma in confronto questo è nulla. Sì, quello lì sono due massaggi. massaggi diversi, questo qua percussione, questo qua vibrazione. Ma lo senti tutto il vibratore in tutto il corpo. Ma non si fa davanti, si fa sulla schiena. Posso fare? No. Ecco, se lo senti su... No, no, quello lì, quello. Il lungone, lungone. Oh mio Dio. Ma questo non è male. Oh, anche da questa parte. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Mi domando cosa mi porti a pensare sempre qualcosa di scandaloso quando vedo degli oggetti che vibrano, degli oggetti che potrebbero lontanamente ricordare dei succedani di attrezzi amorosi. Ma probabilmente nasce tutto da lì, nasce dall'origine, dalla mucca Carolina, dal primo giocattolo e probabilmente la prima amante. La nostra generazione di figli degli anni 50, allevati a formaggini e al culto del sintetico, in cui tutto era bello, ciò che era riproducibile, in cui il catino di zinco non aveva più senso perché c'era il catino in eterno moplen, in cui l'abito di cotone di lana non aveva più senso perché c'era l'abito di tessuto antimacchia, che in realtà era una sorta di scafandro di plastica, ma era bello ciò che era finto. E quindi la mucca Carolina ci ha addestrato ad avere questa moderna e postumana mentalità per cui anche l'amante, anche la passione, anche il fremito amoroso può essere ricostruito artificialmente, anche una macchina può essere amata. Le nuove frontiere dell'amore spaziano in territori che sono composti di microchip e materiali che riproducono perfettamente la pelle umana. Vedrò il giorno in cui sarà ritenuto normale considerare credibile un partner sessuale non totalmente biologico. Sono stato amante della mucca Carolina e vivo ancora lucidamente, mezzo secolo dopo, l'epoca in cui il cybersex non è più un'alternativa balzana alla norma. Allucinai come un déjà vu la mucca Carolina di 50 anni prima, quando entrai in un sexy mercatone alla periferia di Roma. In quel capannone industriale vidi la sintesi atroce di ogni lussuria compressa e vilipesa. I proprietari mi vantavano che fosse il più grande d'Europa. In quel posto, che sembrava l'Ikea delle sconcezze gommose, c'era di tutto. Teste mozze con bocca aspirante, mani impugnatrici vibranti o a pugno chiuso per devastazioni innominabili, natiche, bacini, vulve, falloforie fantasiose, piedi da adorare con apertura vulvimorfa per essere penetrati. Tra tutto mi colpì lo scaffale dove era esposto l'indescrivibile oggetto in cyber skin racchiuso in una lattina simile a quella delle patatine Pringles. In quel cilindro d'alluminio si era ricostruito il condensato di donna semplificata e ridotta ad organo essenziale, offerto come accessorio irrinunciabile per l'uomo di successo, quello che probabilmente non ha nemmeno il tempo per chiedere. Il pezzo di donna in scatola comprime i tempi morti dedicati alla passione, al corteggiamento, al doversi confrontare con un corpo di femmina. Si apre la lattina ed è tutto immediato e facile. L'estratto di donna in morbido silicone offre varie alternative di entrata, interno, colore, temperatura. Potrebbe essere un presidio di sopravvivenza, la matrice tascabile che sta al sesso femminile come la scatoletta di carne spam sta alla mucca. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Il treno va. Per essere intriso nel profondo del senso che ancora può avere una giornata come il 2 novembre, sono passato in un treno locale, in quei piccoli treni che si fermano in tutte le stazioni. E negli scompartimenti è facile vedere signore e signori di una certa età, naturalmente, con grossi fasci di fiori. Sono treni che assomigliano a dei convogli di fiorai, ma sono i mesti fiori della ricorrenza del giorno dei morti. Sono gerani, sono crisantemi che riempono di quell'odore intenso di mortella gli scompartimenti del treno. Perché? Perché oggi ancora qualcuno si ricorda di andare a visitare i morti, sono sempre piccoli cimiteri periferici, piccoli cimiteri di paese, perché nelle grandi città non esistono più i cimiteri. Le città dei morti assomigliano tanto in maniera incredibile e impietosa alle città dei vivi. Sono dei grandi condomini di cemento, non c'è più nulla che ricordi il passaggio tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, che è il passaggio in un giardino dove si pensa che le anime riposino in pace, che accettino, anzi, ci chiedano di andarle a visitare, di mettere dei fiori sulle loro tombe, di passare in quei vialetti silenziosi e cominciare a abituarci a quello che probabilmente sarà il nostro fatale passaggio. Oggi sembrano dei grandi condomini dove i morti sono dimenticati, sono buttati lì come inquilini in un grande agglomerato di periferia. Però mi è capitato di cogliere improvvisamente i discorsi di due donne, anche loro ricoperte di fiori, anche loro andavano a raccogliere qualche ricordo di fronte alle tombe dei loro morti, ma anche loro avevano delle storie molto particolari che vanno oltre quello che è l'immagine tradizionale e suggestiva della persona scomparsa, che semplicemente racchiusa in un ritratto ovale appoggiato su una tomba, fatto da quei fotografi che ancora hanno la possibilità di stampare su ceramica. Mio nonno c'aveva, gli era venuta una forma di psoriasi alle mani, per cui doveva tenere sempre i guanti con le garze sotto, farsi delle cure con delle creme, delle pasticche, perché proprio aveva le mani completamente spaccate. Mani quasi putrefatte? Sì, completamente putrefatte. Lui tra l'altro doveva avere sempre i guanti, perché oltretutto erano spaccate queste mani, non è che le puoi tenere così, doveva tenere questi impacchi, certo. Poi lui insomma anche per il lavoro che faceva ha avuto dei problemi. Che faceva? Era un dentista, doveva avere tutte sotto delle fasciature, poi dei guanti, poi gli altri guanti chirurgici, cioè tutto un casino, oltre poi la sofferenza. E come gli è passato? Gli è passata perché non mi ricordo per quale motivazione, dopo 30 anni che era morto il suo papà, hanno dovuto fare la riesumazione praticamente del corpo. E lui assisteva? E lui assisteva ovviamente, sì. Assisteva perché lui era molto legato al suo papà, e quindi al momento in cui sono andati a riaprire la bara, il papà era esattamente identico a quando l'avevano chiusa, identico. Si era conservato? La pelle, le labbra, gli occhi, il naso, era perfetto, cioè tutto perfetto, cioè non era cambiato nulla. Gli hanno anche spiegato che era andato praticamente come in sottovuoto il corpo, e quindi si era perfettamente conservato. Quindi lui da questa emozione forte, che ovviamente l'ha portato a piangere, cioè è come rivedere il padre, che non si aspettava. Cioè dopo 30 anni gli era apparso il padre così com'era, esatto, prima di morire. Lui si aspettava di vedere un mucchietto di ossa e nient'altro, invece ha visto il padre perfettamente intonso. Esatto. Da questo forte shock emotivo, proprio perché la psoriasi aveva un'origine psicosomatica, gli è sparita istantaneamente, cioè lui il giorno dopo non aveva più. È guarito dallo shock? Immediatamente, dallo shock forte. E il padre cosa ci ha fatto? Poi è rimasto così? No, il padre dopo 10 minuti si è decomposto. Ah, come succede? Come ha visto l'aria nel giro di pochi minuti? È scomparso. Si è scomparso. Quindi lui ha rivisto questa cosa e ha visto ovviamente anche quello che è successo dopo. Quindi è stata un'emozione molto forte. Gli ha fatto scomparire la psoriasi? Completamente scomparsa, mai più tornata nella vita. È una cosa strana, Manuela, succedono cose del genere, tu lo sapevi? Vabbè, che io ho avuto l'esperienza di vedere mia sorella, che è stata riesumata dopo 44 anni e l'ho trovata mineralizzata, quindi era perfetta anche lei? Era perfetta, sì. Ma tu l'avevi conosciuta in vita tua sorella? No, non l'avevo conosciuta, quindi è stato anche per me una fortuna. Ah, quindi tua sorella era morta prima che tu la potessi conoscere? Io nascessi, sì. E quindi avevi una sorella morta che non avevi mai visto. E hai rivisto tua sorella dopo 40 anni? Sì, dopo 44 cioè, anni. Cioè, hai avuto modo di vederla che non l'avresti mai conosciuta? Sì, sicuramente. Impressionante. No, ma lei pure che dopo che l'avete riaperta si è decomposta? No. Sì, il viso identico, i capelli perfetti, perfettamente insomma come ce l'aveva lei, col rame, con i boccoletti, quindi è stata una forte emozione perché era come la vedevo nelle foto. E dove l'hanno messa poi? In un'altra bara. Ah, quindi non l'hanno, diciamo, l'hanno rimessa a posto? No, no, l'hanno rimessa in un'altra. Ma l'hai fatta una foto? No. Non ci hai pensato? Non ho avuto il coraggio, non ci ho pensato. Ma voi avete chiesto come è potuta succedere una cosa del genere? Sì, no, perché ci avevano avvisato prima. Ah, te l'aveva detto prima di aprire la bara? Sì, il medico legale, sì. E cosa t'aveva detto? Cosa t'aveva detto? Ha detto preparatevi perché potrebbe essere ancora intatta. Come faceva a saperlo? Perché forse era quel terreno. Perché beh, l'esperienza evidentemente è successo. Poi con i bambini spesso succede. Ah, perché era molto giovane, vedi? Sì, aveva 3 anni. Ah, proprio una bambinella piccola, vedi? Sì, piccola. No, però poi alla fine ho detto evidentemente in questa occasione, perché era morto mio padre, e quindi è venuta lei a prenderlo sicuramente, ha voluto che in quell'occasione la conoscesse. Beh, io devo scendere, ragazze, vi saluto, buon viaggio, continuate. Grazie. Ciao. Ciao, divertitevi, ciao. Ciao. No, grazie, ciao. Ciao, ciao. Così lascio le due signore che andranno con i loro mazzi di fiori sulle tombe dei loro cari e lì li depositeranno. I loro cari che, il caso, la composizione chimica del terreno, altre circostanze di ordine naturale hanno reso delle mummie. Ma il restare incontaminato, immutato nella sua fase post-mortem del corpo di un essere umano è sempre stato considerato segno della grazia. I santi non si corrompono. La grazia quando attraversa un corpo non lo fa corrompere. Stranamente però esiste una materia molto moderna che ferma la corruzione, che è il silicone, che è il botulino, che sono le tante materie polimeriche e artificiali che gli esseri umani si inseriscono sotto pelle per avere l'illusione di rimanere sempre eterni. Quando venne resumato il corpo di Padre Pio, anche allora la intemperie del tempo non aveva così completamente rispettato quel corpo, e quindi quando fu esposto ai fedeli fu coperto di una leggerissima maschera di silicone. L'eternità della grazia che ha attraversato il corpo del santo era testimoniata dal silicone, la stessa materia che determina l'eternità della bellezza o presunta tale degli esseri umani. Il treno regionale 11:53 è in partenza dal binario 24. Salgo su un nuovo piccolo treno, riprendo il mio viaggio, attraverso campagne, vedo cimiteri. Sento una strana musica provenire dallo scompartimento accanto. Hai avuto il tuo biglietto, andata e non ritorno di traghetto. Non posso farne a meno, t'han sparato e t'han ridato il biglietto. Sono quasi delle prove d'orchestra, è un singolare terzetto fatto da un signore che con un megafono dice delle poesie, un altro che suona il flauto e un altro che suona il violino. Sono 3 amici dell'orchestra da camera mortuaria che vanno in giro per cimiteri cercando di guadagnare qualche soldo con una musica di accompagno funebre. A guidarli è Mauro Petrarca, è un personaggio singolare, è un ragazzo abruzzese che ha provato tutta la vita a fare il poeta cimiteriale con medio successo. Lo hanno chiamato anche in televisione, l'hanno fatto vestire da iettatore, lo hanno fatto esibire con delle cornacchie impagliate di fronte a delle dive del piccolo schermo, hanno insistito sul suo essere uno iettatore, lo mandavano a portare male di fronte agli stadi alle squadre che lo inseguivano, i tifosi, e ha rischiato più volte il linciaggio. E adesso gira per treni con il suo trio da camera mortuaria e ha la funzione del bigliettaio. Chiede il biglietto a chi non ha il biglietto, in cambio avrà il presagio di un lento e mesto trapasso. Finalmente siamo arrivati alla stazione. Per la maggior parte delle persone che hanno ascoltato, il viaggio termina qui. Non per me, perché io risalirò su un altro treno e ripartirò a guardare, ad ascoltare, a osservare, a pensare, mentre il treno va. By the meeting of the ropes, fell to my knees when I knew I had to make a choice. It's a shame, you said.